Venerdì 11 novembre l'Atelier si apre le sue porte per un doppio appuntamento dal vivo e io sono qui per parlarne con Tiana Maravic. Buongiorno e bentornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno Rachele, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Dicevo, doppio appuntamento per questo venerdì con due sonorizzazioni live. Innanzitutto ti voglio chiedere che cosa sono, in cosa consistono le sonorizzazioni live e chi ovviamente saranno le protagoniste di questa doppia serata. Ecco, andiamo avanti nella nostra stagione, si chiama Anima, con queste doppi appuntamenti. Ne abbiamo avuto uno 2 settimane fa e ne avremo ancora uno prima della fine dell'anno, e questo è uno di questi doppi appuntamenti perché ci piace abbinare delle cose, vedere come si possono parlare tra di loro e cosa possono aggiungere al pensiero dal momento in cui le vediamo insieme una dopo l'altra, insomma in una serata più intensa. Sonorizzazioni, quando si parla delle sonorizzazioni nell'ambito cinematografico parliamo soprattutto del cinema muto, quindi dei film che non hanno un proprio audio e al quale viene dato il sonoro dal vivo nel momento della proiezione, quindi possono essere uno o più musicisti che mettono musica, cioè suonano, compongono, a volte si tratta di composizioni originali, a volte si tratta di una musica terza che viene eseguita per accompagnare, per dare il suono alle immagini che vengono proiettate. Tu hai detto le protagoniste, in realtà sì, sono soprattutto protagoniste donne. Il primo film che andremo a presentare è un corto di Maya Deren. Maya Deren è una regista americana di origine ucraina. Presenteremo un suo film che si chiama Etland del 44, se non sbaglio, sì, del 44, che poteva essere sonoro, ma lei volutamente ha deciso di lasciarlo senza sonoro. Quindi Maya Deren, la regista, è anche la protagonista di questo film che è stato ripreso nel Long Island di New York, ed è Maya Deren in spiaggia nella ricerca della propria identità tra le varie possibili. Ecco. In seguito presenteremo il film che si chiama Cenere. Lo spettacolo noi l'abbiamo chiamato Non troverete nulla di me in questo film, che è una frase di Eleonora Duse, che è la protagonista di questo film del 16 invece, ed è l'unica interpretazione cinematografica della grande attrice teatrale Eleonora Duse. Quindi le protagoniste sono Maya Deren e Eleonora Duse, questi sono due omaggi degli artisti contemporanei che hanno dedicato le loro interpretazioni a questi due film. Dicevi anche tu prima che insomma questa nuova stagione di Atelier si sviluppa in doppi appuntamenti. In questo caso, nella serata appunto di venerdì 11, oltre insomma alle sonorizzazioni che troviamo in entrambi i live, c'è anche un altro filo conduttore all'interno della serata, oltre diciamo alla parte pratica, ecco. Intanto volevo dire che si tratta di due sonorizzazioni diverse, così giusto entrare un po' nel merito, certo, degli spettacoli. Il film Maya Deren, cioè la sonorizzazione che fanno Vittoria Burattini e Francesca Bono, che sono le musiciste, Vittoria componente di Massimo Volume e Francesca Bono di Ofelia Dorme. Questa idea di far sonorizzare il film della Deren a Bono Burattini è nata nell'ambito del Festival Archivio Aperto di Home Movies. Bono e Burattini hanno sonorizzato una trilogia della Deren, di cui Etland è solo una parte. In seguito a questa sonorizzazione, Francesca e Vittoria si sono accorte di avere un bellissimo materiale, che questo potrebbe diventare un loro primo album, e così si sono fondate come duo. L'album uscirà l'anno prossimo. Hanno girato questo album da noi al SI, e quindi questo è, come dire, un preannuncio della prossima uscita dell'album. Invece il film Cenere è nato ad Asolo Art Film Festival. Cosimo Terlizzi ha voluto omaggiare Asolo, è la città dove Eleonora Duse ha vissuto e dove è sepolta, secondo un suo desiderio, dedicandole uno spettacolo, una sonorizzazione. In questo caso siamo andati oltre a un accompagnamento musicale, ovvero Cosimo ha fatto anche un lavoro drammaturgico, ha raccolto, vero, tutta una serie di materiali che hanno accompagnato questa uscita, quindi le lettere della Busa alla figlia e anche i testi critici che sono usciti in seguito all'uscita del film, che è stato un flop, è stato un insuccesso e quindi è stato per la Busa un processo molto doloroso questo del suo incontro, del suo primo e l'ultimo incontro con il cinematografo. E quindi per mettere in una nuova luce questa sua avventura ha deciso di dedicarle questo spettacolo che si chiama Non troverete nulla di me in questo film, dove la voce è di Fiorenza Menni è in scena insieme a Luca Maria Baldini. Luca Maria Baldini è un giovane musicista che spesso lavora nel cinema, ha composto una musica originale che esegue dal vivo. Fiorenza dà voce a quello che succede nel film, quello che succede, una storia piuttosto semplice che si basa su un romanzo di Grazia Deledda, ma la voce di Fiorenza racconta quello che è successo nell'animo e nel pensiero della Duse nella società dopo l'uscita di questo film. Sì, gli altri collegamenti, mi chiedevi. Una cosa che così scrivendo, occupandomi io della comunicazione, scrivendo il comunicato stampa, sono andata un po' a cercare delle cose, ho trovato quest'altro aneddoto interessante, una chicca che racconta che Maya Deren è nata come Eleonora Derenkovskaya a Kiev, i suoi genitori amavano molto Eleonora Duse, hanno chiamato loro figlia per il loro amore verso la grande attrice, ecco. Poi Eleonora, quando da piccola si trasferisce negli Stati Uniti, cambia il nome e diventa Maya Deren, però ecco, c'è un legame anche questo tra le due Eleonore, ecco. E poi entrambe avevano uno spirito femminista, o comunque erano legate a un'idea di un pensiero libero e di un'espressività altrettanto libera. Perfetto, Tiana, io ti ringrazio veramente per averci raccontato anche un po' qualcosa al di là dello spettacolo che ci sarà, appunto, ricordo, questo venerdì 11 novembre sempre all'Ateliersi. Grazie ancora. Grazie Rachele, grazie a tutti.